Bene, intanto vi do il benvenuto finché prepariamo le ultime cose per iniziare la nostra serata dedicata, non direi a un tema, direi più a una modalità a cui ci teniamo molto, una modalità nuova di vivere in questo pianeta a cui teniamo molto come biblioteca, ma anche come provincia. La stessa provincia autonoma di Bolzano ha aderito all'Agenda 2030, ha stabilito dei target, si sta uniformando a tutta una serie di, prendendo delle misure e degli obiettivi da raggiungere. In questo senso anche la cultura dà il suo contributo, perché si tratta prima di tutto di un cambiamento culturale, quello dell'Agenda 2030, e le biblioteche possono essere veramente un mezzo per raggiungere e diffondere certi contenuti. A questo noi crediamo molto, infatti siamo contenti anche del suggerimento che ci è venuto tempo fa da Fabio Bonafè, che è qui in sala e che ringrazio, di presentare questo libro. La biblioteca raccoglie e sviluppa continuamente una collezione dedicata a tutti gli obiettivi che vedete rappresentati in questo roll-up qui vicino in maniera sintetica. E questa sera abbiamo preparato anche una breve bibliografia, che però è molto più nutrita rispetto a quello che vedete qui, questo è solo un piccolo saggio, ci impegniamo, diciamo, mensilmente nell'aggiornare e nel diffondere questa bibliografia presso tutti i nostri utenti iscritti alla newsletter. Questo lo stiamo facendo da 2 anni a questa parte, quindi abbiamo iniziato nel periodo del lockdown, quando eravamo tutti confinati in casa, e abbiamo iniziato ad operare in questo senso. Bene, allora entriamo nel vivo del tema, vi presento i nostri ospiti che chiedo di raggiungermi, ecco, qui al tavolo, e che ringrazio tantissimo. Allora, il libro che vedete è questo, In vano liquido, scritto da De Matteis e da Nardelli, uno dei due autori qui presente con noi questa sera, lo ringrazio, e poi sarà accompagnato in questa presentazione da Claudio Cappedelli, da 2 ricercatori dell'Università dell'Eura, che in particolar modo il Senior Research dell'Eura Giacomo Bertoldi, e poi da Michele Bozzoli, che è un dottorando dell'Università di Trento che però collabora con l'Eurac. Vi lascio in compagnia dei nostri ospiti, che ringrazio ancora, ascoltiamo questo dibattito con grande attenzione perché ci riguarda tutte e tutti. Grazie e buona serata. Let me be real for a second. You've got a huge opportunity right now. as you rebuild your economies and bounce back from this pandemic, this is humanity's big chance. So here's my wild idea. Don't choose extinction. Save your species before it's too late. It's time for you humans to stop making excuses and start making changes. Thank you. Buonasera a tutte e a tutti, io sono Claudio Campedelli e benvenuti e benvenute a questa presentazione del libro Inverno Liquido. E noi abbiamo molti più ospiti di quanti erano stati annunciati prima e adesso vorrei nominarli, a parte il dinosauro che abbiamo appena visto. E sarà presente anche Roberto De Martin, già presidente del Club Alpino, e Sofia Farina e Linda Schwarz, Protect Your Windows Italy, scusate la mia pronuncia, e poi il secondo autore o il primo autore, coautore del libro, Maurizio De Matteis, che è collegato con noi online, che fra poco dirà alcune cose. E vorrei proporre in questo incontro, che dovrebbe essere più che una presentazione del libro, un colloquio, così è stato chiesto dall'autore, e proporrei di usare del tu e non del lei, così è un po' anche più leggero, e chi non è d'accordo magari lo dice subito. Und wer etwas in deutscher Sprache sagen will, kann es sagen, also in eigener Sprache, wir werden dann versuchen das zu übersetzen. Quindi allora direi che possiamo iniziare, e avevamo previsto da subito un intervento di Sofia e dei ricercatori della EBRAC, che abbiamo spacchettato in due interventi, anche questo perché sarà un po' più leggero, e pregherei allora di prendere parola. E dobbiamo collegare il computer però, perché abbiamo delle slide da far vedere. Chiavetta? Se è possibile. Magari se vuoi iniziare. Sì, mi serve una slide. Avete una chiavetta? Sì, bueno, sì, però facciamo prima. Cosa mi serve? Una chiavetta per collegare per la presentazione di sul computer, perché abbiamo delle slide da far vedere. Sì. Io vorrei vedere qua. Le slide su questo, perché c'è anche un messaggio collegato. Ok, non si può iniziare. Non so, c'è anche l'acqua sul tavolo, quindi può essere. Buonasera a tutti, io sono Michele Bozzoli, come sono stato introdotto sono un dottorando della Università di Sud di Trento, ma sono in collaborazione anche con l'EURAC di Bolzano. Abbiamo preparato con Giacomo Bertoldi una piccola presentazione dove praticamente siamo andati un po' ad analizzare quelli che sono stati gli impatti, che saranno gli impatti futuri del cambiamento climatico sulla componente acqua e sulla componente neve, specialmente nel Trentino Alto Adige, ma più in generale nella regione alpina. Prego, Giacomo. Innanzitutto siamo partiti da un nostro studio che abbiamo fatto, che è stato pubblicato di recente sulla Royal Meteorological Society, e dove praticamente abbiamo analizzato quelli che sono stati gli ultimi 40 anni di dati sulla nostra regione, di nevicate a livello stagionale, quindi da ottobre ad aprile. In pratica siamo partiti dai dati di neve, quindi abbiamo capito innanzitutto quanto nevicava mediamente in una stagione in diverse località dove questa neve appunto veniva misurata. Quello che abbiamo visto, e li vedete anche nella mappa qui, è che più o meno in Val d'Adige nevica fra i 20 e i 40 cm, parlando di neve cumulata in tutta la stagione, per chiaramente aumentare fino anche ai 2 metri o più sulle località chiaramente più alte in quota. Quello che poi abbiamo fatto attraverso strumenti statistici è andare a vedere questi 40 anni di dati e che informazioni ci potevano dare a livello di trend. Quindi quello che noi abbiamo visto è che in buona sostanza il decremento nelle nevicate in questi ultimi 40 anni è stato molto molto forte, soprattutto nelle zone di valle, quindi fra i 0 e i 1000 metri di quota. Si parla di meno 30, meno 50% di neve in meno, quindi un valore molto considerevole, fino addirittura a un picco di meno 75% proprio qui a Bolzano, che risulta essere la diciamo località con un decremento maggiore. Questi trend vanno un po' ad abbassarsi, si parla di meno 10, meno 30% se si considerano le quote intermedie. E addirittura, e questo è stato un aspetto molto interessante della nostra ricerca, si vanno a stabilizzare o in alcune località ad essere leggermente positivi per le regioni più in alta quota, per le località più in alta quota. Questo perché ci siamo chiesti, vai pure avanti Giacomo, perché abbiamo analizzato anche i dati di pioggia e abbiamo visto che c'è un leggero aumento della precipitazione invernale. Ripeto, solo stiamo parlando di questi ultimi 40 anni, non dovete estendere questa cosa a una proiezione futura o a quello che sono per esempio questi ultimi 2 anni che invece sono stati molto secchi. Unitamente però all'aumento della precipitazione, alla leggera media temperatura, purtroppo invece c'è un aumento molto forte della temperatura media, che ovviamente questa è risultata essere in maniera abbastanza omogenea dappertutto in netto aumento. E quindi allora la conclusione un po' di questo studio che è venuto fuori è questa, è che nella regione diciamo a bassa quota, nella zona di bassa quota fra 0 e 1000 metri, i trend sono chiaramente decrescenti a causa di un aumento molto forte della temperatura media. Nella regione invece intermedia, fra i 1000 e i 2000 metri di quota, quello che abbiamo visto è che c'è un trend negativo sempre di nevicate, ma un po' meno forte, dovuto ad un aumento della temperatura ancora una volta, ma qui i trend iniziano ad essere più variabili. Ci sono delle località che hanno registrato degli aumenti, delle località invece che hanno registrato un decremento. E soprattutto si vede che, facendo un'analisi più specifica a livello mensile, c'è una certa variabilità, nel senso che a inizio e a fine stagione i trend tendono ad essere più negativi, mentre nel cuore della stagione, quindi in gennaio, febbraio per intenderci, questi trend iniziano a diventare un po' più positivi. E invece nell'ultima località, quindi fra i 2000 e i 3000 metri, lì i trend abbiamo visto tendono ad essere più positivi. Perché? Perché abbiamo visto c'è un leggero aumento della precipitazione, c'è anche un leggero aumento della temperatura media, ma il fatto è che lì mediamente la temperatura è ancora sufficientemente bassa per avere neve. Quindi questo è un po' il dato fondamentale. Ecco, forse un commento che però se si guarda poi la durata della stagione invernale, anche le altre quote verso primavera si vede chiaramente un anticipo dello scioglimento. Esatto. A livello diciamo più così in generale, questo è un altro studio fatto da questo progetto, il Clear Snow, da questa persona che è un ex ricercatore dell'Eurac, Michel Mathieu, che diciamo, ha analizzato un po' più in generale quello che è la neve e i trend di neve su tutto l'arco alpino, andando a considerare non tanto l'altezza di neve quanto l'altezza del manto nevoso. Però quello che in buona sostanza ha trovato sono un po' i nostri numeri, differenziando nord e sud delle Alpi, quello che si vede è che effettivamente si parla di decremento fra il meno 30 e meno 50% per le zone di media bassa quota, che via via diventa un po' minore quando noi ci alziamo di quota e addirittura segna un più 40 e passa per cento per le altissime quote. Vai pure avanti, Giacomo, grazie. Quindi, fatto un po', diciamo, questo quadro a livello attuale e del clima del passato, la domanda che uno ovviamente si può porre è: con i cambiamenti climatici che cosa succederà in futuro? Quello che dobbiamo tenere presente è, come sempre, i rapporti dell'IPCC, che è l'Intergovernmental Panel of Climate Change. Praticamente ci mostra, in base ai vari possibili scenari, quello che potrebbero essere l'aumento della temperatura media a livello globale. Quindi, se noi riusciamo a fare una mitigazione, diciamo che possiamo riuscire, e quindi sarebbe un po' la linea blu e azzurra, riusciamo a stare con un aumento della temperatura sugli 1,5-2 gradi, oppure se invece non facciamo alcuna mitigazione, beh, tendiamo ad avere lo scenario più diciamo drammatico, con un aumento della temperatura che addirittura si stima essere di oltre 6 e passa gradi, insomma. Quindi, in base a questi scenari più o meno, diciamo, pessimistici, nello specifico caso di Bolzano, quale potrebbe essere il clima di Bolzano fra qualche anno? Beh, qui vediamo a confronto due scenari, e quello che si vede è che, in buona sostanza, se noi consideriamo un scenario con un po' più di mitigazione, la temperatura, l'anomalia di temperatura in inverno e in estate, mediamente si dovrebbe attestare sugli 1,5 gradi, mentre se noi consideriamo un scenario peggiore, beh, allora qui le cose cambiano, perché a parte in un primo momento dove due linee praticamente sono comuni, dopo si vede che dal 2060 in poi, 2050 in poi, queste due linee iniziano a divergere e l'aumento di molto cambia, soprattutto per lo scenario peggiore, chiaramente. A livello di precipitazioni, invece, quello che si vede è che, anche considerando sempre i due scenari differenti, non c'è un trend, non si può dire in futuro ci sarà più o meno acqua, e proprio perché il regime delle precipitazioni, soprattutto nella nostra zona, nell'arco alpino, non è così ben definito. E quindi ci possono essere delle annate dove registriamo un incremento della precipitazione, alternate ad annate più secche, come stiamo vivendo in quest'ultimo periodo, dove la precipitazione potrebbe risultare molto scarsa. In generale, quindi, a livello di neve, cosa possiamo dire? Questo è sempre uno studio portato da questo Clear Snow Project, da Michel Mathieu e tutti gli altri ricercatori, dove hanno sostanzialmente analizzato quello che è il confronto del giorno con neve al suolo sul recente periodo, quindi fra il 2001 e il 2020, e quella che è la stima portata a fine secolo, quindi fra il 2071 e il 2100. Allora, vedete praticamente il numero dei giorni in funzione della fascia di quota, che sono i numeri dei giorni, la media recente, sono indicati dal simbolo della neve stilizzato in azzurro. Se noi andiamo a fare una riduzione futura con il riscaldamento globale attestato fra più 1,5 e 2 gradi, si vede per esempio che per la fascia di quota 500 metri noi avremo quel 4 giorni in meno con neve al suolo. Quindi, invece dai 19, che è attualmente la media, passiamo a 15. Se noi supponiamo di andare a fare una mitigazione praticamente scarsa, e quindi la temperatura media registra un aumento di più 4-5 gradi, allora vuol dire che i giorni, invece che da passare da 19 come sono adesso, passano a 10 in meno, quindi 10 più 4 in meno, quindi 5 solo giorni con neve al suolo per la fascia di quota 500 metri. Via via si può fare lo stesso ragionamento a 1500, 2005, 3005. Quindi, chiaramente, in base all'aumento di temperatura si possono andare a definire quelli che saranno i giorni con neve al suolo in quel trentennio. Ok, Io quindi ho terminato, vi ho fatto un po' un quadro su quella che è la situazione neve in questo momento, e lascio la parola velocemente a Giacomo, oppure dividiamo meglio dividere, ok, allora Giacomo dopo vi racconterà l'impatto invece sull'acqua. Grazie. Allora, grazie per questo rapido inquadramento nella situazione. Allora pregherei Sofia e Linda. Forse facciamo Maurizio. Facciamo Maurizio perché lui deve... Sì, facciamo scusa Maurizio. Ok, allora adesso dobbiamo staccare questo. Ci colleghiamo ora con Maurizio De Matteis. Essere presente qui. Allora, cioè, Maurizio non è online, magari lo chiamiamo dopo. E beh, allora Linda e Sofia, prego. Grazie mille. Fortunatamente ci siamo anche noi come giovani. Vogliamo presentarvi una nostra associazione che si chiama Protect Our Winters, che esiste in tutto il mondo. Noi abbiamo fondato in Alto Adige 2 anni fa. Era un gruppo piccolino di altoatesini che ha studiato a Innsbruck, quindi l'abbiamo importato più o meno, e noi ci occupiamo dell'ambiente nell'ambito montagna, cioè noi vogliamo trasmettere dei valori della sostenibilità nell'ambito outdoor sport, ovvero noi abbiamo un Athletes Alliance, un gruppo di atleti che ci rappresenta al di fuori, perché loro ovviamente hanno il reach, hanno tanti follower, e noi lavoriamo soprattutto su dei canali social media dove possiamo comunicare con dei giovani, diciamo. Ma nonostante siamo anche in contatto con la politica, soprattutto qui a Bolzano, abbiamo lanciato un sondaggio che è stato finanziato anche dall'Ufficio della Mobilità, e per cui vediamo un andamento molto positivo, anche grazie ovviamente a questo trend attraverso la climate mitigation, perché noi vogliamo comunicare questo, non soltanto la adaptation, e siamo, come detto prima, una piattaforma, quindi ognuno si può iscrivere, siamo una ODV registrata e anche finanziata dalla provincia di Bolzano, però siamo attivi in tutta Italia e al momento sono ancora la presidente, però sarà la Sofia Farina che prenderà in mano il mio ruolo ed espandiamo, e lei vi spiego un po' come ci muoviamo anche nell'ambito, diciamo, con altre NGO, perché solo 2 settimane fa siamo stati molto, abbiamo avuto tanto successo secondo me. Ecco, ti passo la parola. Sì, esatto, come diceva Linda, volevamo portare un po' un racconto di quella che è la scena associativa e insomma delle organizzazioni che si occupano della tutela dell'ambiente montano in questo momento, non solamente in Trentino Alto Adige, ma un po' in tutto l'arco alpino e anche negli Appennini, perché non so se qualcuno di voi ha avuto modo di saperlo, ma domenica 12 marzo, c'è stata una grande mobilitazione nazionale indetta da The Outdoor Manifesto, che è un'altra organizzazione basata sempre in questa zona. E quindi questa manifestazione si chiamava Reimagine Winter, quindi Reimaginiamo l'inverno, e partiva proprio da questi scenari che appunto vediamo sia nelle pubblicazioni scientifiche come quelle che ci hanno presentato Michele e Giacomo, sia con i nostri occhi quando guardiamo le montagne in questi giorni, e quindi come realtà più o meno locali e più o meno con dei pubblici diversi ci siamo chiesti come sogniamo che sia l'inverno e come sogniamo che sia la nostra attività in montagna d'inverno e come dobbiamo cambiare sapendo quelli che saranno gli scenari futuri. E questa manifestazione in particolare è stata una manifestazione diffusa, nel senso che è stato lanciato un appello e poi sono state raccolte tante esperienze locali di casi particolari in cui c'erano delle situazioni ambientalmente pericolose, come ad esempio idee della costruzione di nuovi impianti in delle zone che molto probabilmente nei prossimi anni non avranno neanche un giorno di neve, o delle zone in cui appunto il territorio montano è sfruttato in maniera incontrollata e in cui è richiesta una maggiore tutela. E noi siamo state a Serodoli, vicino a Madonna di Campiglio, dove abbiamo manifestato per opporci a un eventuale ampliamento del comprensorio sciistico, che è già uno dei più estesi dell'intero arco alpino italiano. E, però ci sono state diverse manifestazioni anche in Veneto, anche in Panarotta, dove invece c'era un caso di esperienza positiva in cui stanno iniziando a pensare a come si può reinterpretare un resort sciistico basato sulle sci e sugli impianti, come lo si può reinterpretare come meta per ciascuno, sci alpinisti e slittini, in un'ottica appunto di cambiamento climatico. Quindi diciamo che soprattutto negli ultimi mesi si sta creando una rete molto compatta di diverse associazioni che stanno condividendo le loro esperienze e vari casi sia positivi che negativi, e siamo molto fiduciosi che unendoci e riuscendo a fare un po' di rete riusciremo a comunicare sempre di più con una percentuale maggiore delle persone, sia appunto i casi positivi da cui prendere un buon esempio, sia i casi negativi su cui invece bisognerebbe magari un po' farsi sentire di più. Non so se vuoi aggiungere. È stato detto tutto. Vi ringraziamo. Bene, adesso siamo riusciti a collegarci. Maurizio, ti darei la parola. Buonasera a tutti, mi sentite? Sì, sì. Ok. Bene, questo invito, e mi spiace chi non potrà essere lì in presenza con voi, ma insomma la tecnologia ci permette almeno di collegarci a distanza. E questo nostro lavoro, io di Michele Nardelli, è molto parecchio con altre persone, ed è un reportage, sono qui 2 anni di lavoro, un reportage sui territori di montagna per andare a indicare varie comunità che in qualche modo si stringono attorno al business di uscita e discesa, come viene percepito e cosa fanno al luce dei grossi cambiamenti, del momento di crisi che vive questo settore. È un lavoro che, per quanto mi riguarda, nasce da una duplice spinta. Una è la passione per lo sci, in tutti i suoi vari modi, dallo sci da discesa, lo sci alpinismo, lo snowboard, e quindi, ha una profonda conoscenza di queste realtà. La seconda è dal fatto che io da 30 anni mi occupo comunque di sviluppo territoriale in montagna, oltre che di giornalismo, e quindi conosco bene molte dinamiche di questi territori. E ciascuna consapevolezza che molte di queste realtà, se hanno un core business, l'uscita di chiesa, vivono un momento difficile dettato soprattutto da tre componenti. E una è la più consistente, è quella che viviamo in questo momento, è quella del cambiamento climatico. La seconda è una crisi economica e la terza è il cambiamento culturale. Diciamo che crisi economica e cambiamento culturale si fondono insieme, perché diciamo, dall'inizio di questo millennio il turismo di massa, cioè quello che vede le città limitrofe a queste stazioni sciistiche, recarsi in maniera massiccia sulle piste da sci, è entrato un po' in crisi, perché comunque legando cerca il cambiamento climatico, i costi salgono la gestione di queste stazioni, e la crisi economica va da un'altra parte per chi ha famiglia, e quindi alla fine sta diventando sempre più caro come sport. E allora lo sci di massa, in alcuni casi, laddove le stazioni sciistiche se lo possono permettere, quindi hanno un dominio skiable che è molto alto, di sopra i 2000 metri, rilanciano con un'infrastrutturazione innovata, se riescono con impianti, perché ormai il gioco si fa internazionale, cioè lo sci di massa è diventato il turismo della globalizzazione, quindi gente che arriva dall'estero e charter del neve. Ma per reggere in quel mercato bisogna avere appunto dei domini schiavi molto all'avanguardia, molto grossi, sempre più in crescita, che riescono a fare concorrenza a livello europeo. E quindi si è creata un po' una dicotomia, cioè da una parte ci sono le grandi stazioni sciistiche, ancora diciamo ormai 30 anni di orizzonte temporale a livello di business economico, così di specialisti. Dall'altra le stazioni medio piccole, molte delle quali con impianti al di sotto dei 2000 metri o comunque in realtà dove la neve è sempre più. Per quanto riguarda questa seconda tipologia, le stazioni medio piccole, quelle davvero pensare a una transizione anche abbastanza veloce, perché non possono più basare la loro economia, l'economia dell'intero territorio, su un business che ormai si è ridotto a più mesi l'anno, con dei costi che aumentano, la concorrenza comunque grossa. Quindi noi abbiamo cercato di capire soprattutto queste seconde realtà, ma andando anche a incontrare le grosse le stazioni sciistiche, che cosa stava succedendo in queste realtà. Siamo andati facendo, diciamo, con tanta rete, la rete di colleghi, amici, mia e di Michele, che ci hanno permesso in qualche modo di entrare nelle dinamiche di queste comunità che siamo andati a visitare. Siamo andati proprio a cercare esempi di transizione, e ne abbiamo trovati molti che raccontiamo all'interno del nostro libro. Quindi non dico, vuole anche essere un messaggio di speranza, diciamo così, di quei soggetti minuti, come li chiama Aldo Bonomi nella prefazione del libro, che in qualche modo stanno cercando di diversificare per turisti anche d'inverno, ma spingendo sulle mezze stagioni e anche sulle estive. Questa è un po' la storia di come è nato il nostro libro, che vi invito ovviamente a leggere, ma che vuole essere, come dicevo, certo un allarme, ma anche un messaggio di speranza, perché siamo in un momento storico di cambiamento, di transizione, ed è possibile fare questa transizione, attuare questo cambiamento. Basta rendersene conto e riuscire veramente a avere questa capacità di cambiamento di paradigma. Ci dice che non esiste un'industria che arriverà a sostituire quella dello sci, non esiste, nessuno l'ha ancora individuata, e quindi bisogna in qualche modo mettere dei soggetti puti di offerte turistiche dai numeri più qualitative, più di rapporti, basati sui rapporti, sulla valorizzazione dei beni endogeni che ci sono all'interno delle valli, quindi senza inventarsi grandi giri, ma cercando di valorizzare quello che c'è. Io vi ringrazio, per ora mi fermerei qua, spero che siete riusciti a sentirmi. Grazie Maurizio, e sì, non so quanto puoi rimanere con noi, io lo lascio acceso, se poi devi andare o così, decidi tu, Ieri io fa piacere sentire. Ok, tu ci senti solo, no? Ok, sì. Va bene, d'accordo. Allora adesso. Sì. Dimmi. Ok, va bene. Allora pregherei adesso Roberto De Martin, già presidente del Club Alpino. E io faccio. Sì. Non faccio l'intervento che avevo programmato perché il libro l'ho letto dalla prima riga all'ultima, perché con Nardelli ci eravamo dati questa intesa. Credo che nel merito si può entrare in un'altra occasione, perché di presentazione dei dati ne sarei ancora. Qui mi limito a dire una cosa che mi sembra interessante, che nel libro ho scoperto un errore e da questo errore è venuta alla memoria una cosa che mi sembra molto importante, soprattutto per le giovani che hanno parlato prima di me. Alla loro età io ero qui a Bolzano un paio di volte in casa Trenker. Perché venivo da Trenker? Perché Trenker mi ha chiesto di dargli una mano nella compilazione di un libro, parliamo sempre di libri, il cui titolo era No l'autostrada di Alemania. L'autore, che era stato commissionato dalla provincia, era morto per infarto e lui si era trovato a dover compilare questo libro con elementi direi limitati, per cui doveva arricchire questa sua compilazione. Ci siamo trovati sia a Bolzano che a Monaco di Baviera, a casa sua, e quell'impegno ne valsa la pena, e per questo lo dico rivolgendomi alle ragazze, perché 50 anni fa non avrei mai pensato che nel 2019, quando in piazza San Luca a Padova per il Comerico 3.000 persone che volevano il collegamento Comerico-Busteria in chiave sciistica di collegamento, io mi sono rifatto a quel volume. Perché mi sono rifatto? Perché avevo in mano un plastico stampato già a Firenze, dove si vedeva l'autostrada d'Alemania che passava sopra i boschi del Cadore, del Comerico, di Sesto, a Sesto a dire il vero con molte più avvertenze di carattere costruttivo e con impegni finanziari diversi rispetto al Cadore, che come sorella povera doveva sopportare e ringraziare. E di fronte ai 3.000 che erano lì per dare valore a questo collegamento sciistico, io ho detto, per fortuna possiamo parlarne, possiamo dibatterne, perché quell'ipotesi dell'autostrada è tramontata per il lavoro che abbiamo fatto insieme del Comerico e di Sesto tanti anni fa. Come siamo riusciti a farla? Riuscendo a convincere i regolieri, nel libro interessante perché si richiama anche al ruolo degli usi civici, delle regole, eccetera, perché siamo riusciti da regolieri dell'assemblea delle regole, che sono le proprietarie di tutti i boschi al 99%, a fare a stretta maggioranza un no all'ipotesi di quell'autostrada in quel tracciato e con quella. E per cui ho detto, siamo qui, possiamo parlarne, come possiamo sicuro leggere volentieri il libro di De Matteis e Nardelli, proprio perché quando avevamo 20 anni, 25, appena laureati, siamo riusciti a fare gruppo e riusciti a distogliere quello che era veramente un progetto da buttare nel cassetto. Perché vi dico questo? Perché magari quando si ha questa età non si pensa a quello che poi potrà capitare, alla palla di neve che fa valanga. Ecco, noi siamo riusciti a fare quella cosa in quel contesto. Per cui questa testimonianza è tanto un'errata corri che per il libro, ne abbiamo già parlato con Michele, ma soprattutto per far capire che un impegno di questo tipo non è vano, non si sa dove potrà portare, però vi faccio vedere altre due cose, perché con i giovani di Friday Future del Veneto io ho fatto un dibattito, parliamo di centinaia di ragazzi, qualche mese fa, non tanto mese fa, su questi due altri volumi, Terra Ultima Chiamata, Acqua Ultima Chiamata. Questo è l'orologio dell'Università di Chicago che in base ai ricercatori hanno stabilito che abbiamo ancora, a quando l'hanno fatto, pochissimo tempo rispetto alla mezzanotte. Non vado, oggi parliamo di altri volumi, ma per dire che anche in terra veneta su queste cose si stanno interrogando in termini positivi. E da ultimo, da Presidente del CAI, vi comunico che il congresso 101° che si farà quest'anno, so che i giovani del CAI sono collegati al vostro gruppo, si farà a Roma e si farà sui cambiamenti climatici. Il congresso, rispetto alle assemblee dei delegati, dove vanno solo gli incaricati, quelli che hanno un ruolo dirigente nell'ambito del sodalizio, il congresso invece è aperto a tutti i soci. E per cui credo che è un'occasione su questo piano di rivedersi e soprattutto di riallacciare collegamenti positivi. Quando ho lasciato il vertice del Club Alpino, io ho ricordato nella ultima relazione dell'assemblea dei delegati, mi viene facile dirlo oggi dopo aver sentito anche i ricercatori ORAC, mi sono ricollegato a un qualcosa che avevo scritto nel centenario sul rifugio più alto d'Europa, che è la Cabana Regina Margherita. Mi ricollegavo a una frase di Quintino Sella, nostro fondatore, che parlava di un'utopia possibile. Credo che questo è un tema d'utopia possibile, ma mi ricollegavo con una frase del Nobel per la fisica Ilya Prigozhin, e lui diceva che oggi la scienza deterministica non riesce più a avere presa, è quella che invece fa presa quello che cerca l'impossibile, quello che sorprende, quello che stupisce, quello che è diverso. Ecco, credo che su questo fronte noi dobbiamo cercare anche di scoprire il diverso, l'impossibile, quello che non si può prevedere. E qui vanno bene le statistiche, ma guai se non ci fosse poi l'animo, la passione e soprattutto anche l'interazione. Grazie. Grazie Roberto. Allora, adesso passiamo al libro. Allora, il libro ha come titolo Inverno liquido, la crisi climatica, le terre alte e la fine della stagione dello sci di massa. È edito da Rive e Aproidi. E questo libro fa parte di una collana diretta da Aldo Bonomi che si chiama Comunità Concrete. Maurizio, io ti faccio, scusa Michele, ti faccio subito una domanda. Io ho letto il titolo e ho pensato subito, ne abbiamo già parlato, il danno liquido, cioè la neve che si scioglie, ok? Però non è così. Ecco, vorrei partire da questo e ti lascio la parola. Intanto buonasera a tutti. La neve non si sta solo sciogliendo, potremmo dire così. Ne arriva sempre di meno e questa cosa aggrava oltremodo la situazione. Questo libro parla molto delle terre alte e dell'impatto che il cambiamento climatico ha sulle terre alte e sulle aree interne, ma è anche un'opportunità di confrontarsi su quello che sta accadendo alla nostra casa comune più in generale. Voi se lo leggete appunto avrete modo di trovarvi un lungo reportage su tutto l'arco alpino e su tutta la dorsale appenninica fino alla Valle Madonina, per capirci, e dunque un racconto anche di viaggio sostanzialmente attraverso le realtà della penisola italiana. Ma dentro questa ricerca c'è una cornice sulle quali vale la pena spendere due parole, insomma, e la cornice è proprio quello di indagare su quello che sta accadendo alla nostra casa comune. Si parla della necessità, si dice spesso della necessità di comprendere quello che avviene, essere presenti al proprio tempo, scriveva Hannah Arendt, e questa non è una banalità. Essere presente al proprio tempo significa dare significato alle cose che vediamo quotidianamente, a tutte quelle descrizioni che ogni giorno sentiamo relative al cambiamento climatico e non solo al cambiamento climatico. Però si tratta anche di avere uno sguardo più profondo, mi viene da dire, perché altrimenti rimaniamo ancora nella superficie. E lo sguardo più profondo è proprio il senso di questo lavoro, che corrisponde proprio alla domanda di come le crisi impattano sugli ecosistemi. Quindi le crisi al plurale, perché non abbiamo soltanto a che fare con la crisi climatica, abbiamo a che fare con un intreccio di crisi che riguardano l'ambiente, che riguardano la crisi alimentare, la crisi sanitaria. Non siamo ancora usciti, voglio dire, dalla pandemia che ha determinato 6 milioni e mezzo di morti almeno a livello globale, ma che anche crisi demografica e crisi migratoria e crisi bellica. Tutte queste crisi si intrecciano tra loro, tant'è che abbiamo parlato durante la pandemia di sindemia, proprio per dare l'idea di questa complessità. Le crisi non è che arrivano a comando oppure una dietro l'altra, si intrecciano tra loro. E allora ragionare sulle crisi e sul loro impatto sugli ecosistemi può essere uno sguardo interessante, perché gli ecosistemi sono i luoghi in cui noi viviamo concretamente, quindi le terre alte, certamente le aree interne, ma anche i fiumi, ma anche i mari, ma anche le pianure, ma anche le città, le aree metropolitane. Ed è appunto quello che abbiamo in qualche modo considerato come cornice. Quindi non soltanto il problema di mancanza di neve, no? Ma di qualcosa di più profondo, che lo potremmo definire, come ne scriveva Enzo Tietti ancora nel 1984, come un rovesciamento del tradizionale disallineamento tra tempi storici e tempi geologici. Ora abbiamo a che fare con qualcosa di più complicato, perché i tempi storici sono i tempi della vita dell'uomo sulla Terra, sono in qualche modo anche le nostre vite, e i tempi biologici sono quelli che riguardano la storia della Terra, e dunque vuol dire misurabili in ere geologiche, non nelle vite di noi poveri umani, insomma, più o meno poveri, e quindi abbiamo a che fare con qualcosa che cambia radicalmente lo scenario al quale eravamo abituati. I tempi storici procedevano lentamente e velocemente, e i tempi biologici appunto procedevano invece molto lentamente, tanto che nelle nostre vite noi non avevamo la percezione di un cambiamento dei tempi biologici, perché quelli appunto procedevano per ere. Quello che sta avvenendo in questo momento invece è appunto qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo conosciuto in passato, per due ordini di motivi in particolare. Uno, che per la prima volta i cambiamenti climatici avvengono sulla base dell'azione dell'uomo sul pianeta. E in secondo luogo per il fatto che siamo presenti in una sorta di contesto di rapidizzazione, come la chiama Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si. Cioè appunto una rapidità appunto che era prima sconosciuta. E allora questo rovesciamento del tradizionale disallineamento tra tempi storici e tempi biologici produce una condizione di tipo inedito rispetto a quello che avevamo conosciuto in passato. In passato ci sono già stati momenti importanti di cambiamento climatico, abbiamo avuto la piccola glaciazione, abbiamo avuto, voglio dire, momenti appunto in cui l'andamento del clima era assolutamente irregolare. E quello che avviene oggi è qualcosa però appunto di nuovo, e che facciamo fatica a capire proprio per questi due meccanismi: primo, perché c'è una componente non naturale in questo ed è data dall'azione dell'uomo, e in secondo luogo perché appunto questo processo avviene con una rapidità prima appunto sconosciuta, che facciamo fatica a comprendere. Io stesso fino a qualche anno fa immaginavo che i cambiamenti climatici procedessero in maniera lineare sostanzialmente, per cui uno si poteva in qualche modo dare anche un tempo disteso di approccio nei confronti di quello che stava avvenendo. Invece poi abbiamo capito che non era affatto così e che invece il procedere era per eventi estremi che sembrano contraddittori tra loro, ma non lo sono affatto. Quando noi abbiamo conosciuto questi ultimi mesi appunto di nevicate, di pioggia, eccetera, abbiamo verificato proprio in cosa consiste questa presunta contraddittorietà. Noi per mesi abbiamo avuto gli Appennini senza un centimetro d'acqua e poi improvvisamente ci siamo trovati 3 metri di neve. Allora uno dice, ecco, vedete, non esiste il cambiamento climatico, abbiamo a che fare con fenomeni che si ripetono in maniera tutto sommato, voglio dire, corrispondente a quello che accadeva prima. Il problema invece è che non è affatto così, perché una delle caratteristiche proprio di questa crisi climatica è appunto questo effetto di eventi sempre più estremi. E allora di fronte ad un cambiamento inedito rispetto al contesto precedente, noi fatichiamo, l'essere umano fatica a capire. Poi ci sono anche ragioni molto più banali, se volete, legate agli interessi, al non voler capire. Ma diciamo così, c'è una situazione di difficoltà, perché noi ci troviamo proprio ad un passaggio appunto inedito, che corrisponde alla necessità di un cambio di paradigma, di un cambio di pensiero. Noi, tutti noi, siamo figli del positivismo, e cioè di quella filosofia che partiva da una semplice considerazione: la società dell'abbondanza. Ce n'era per tutti sostanzialmente, e dunque si poteva in qualche modo teorizzare lo sviluppo infinito e le magnifiche sorti progressive dello sviluppo. Questa cosa aveva un certo fondamento nel momento in cui i pensieri 8-900 che sono figli del positivismo si confrontavano con la realtà, perché nel 1800 gli abitanti della Terra non raggiungevano 1 miliardo di esseri umani. Nel 1960 non eravamo ancora 3 miliardi e il pianeta consumava soltanto il 50% di quello che gli ecosistemi terrestri erano in grado di produrre. Quindi eravamo dentro un contesto ancora di abbondanza sostanzialmente, e tenete conto che il 1960 sono gli anni del grande boom economico a livello più o meno globale, insomma. Nel 1971 questa situazione cambia ulteriormente, arriviamo sostanzialmente al pareggio del consumo di quanto gli ecosistemi riescono a produrre, e poi ci incamminiamo nel territorio dell'insostenibilità, tanto è vero che oggi siamo in 8 miliardi e il pianeta consuma 1,8 volte quello che gli ecosistemi terrestri sono in grado di produrre, quindi avremo bisogno, stando agli attuali livelli di consumo, di un altro pianeta, molto semplicemente. I pensieri dell'Ottocento e del Novecento si dividevano radicalmente. Il pensiero, il sol dell'avvenire, era una prospettiva diversa dalla società appunto dell'abbondanza, del pensiero liberale. E in cosa si distinguevano questi due pensieri? Si distinguevano sostanzialmente nella redistribuzione delle risorse. Il dibattito 8-900 è stato un dibattito sul fatto che le disuguaglianze evidenti che venivano espresse dovevano appunto prevedere un'iniziativa per riequilibrare il livello di accesso alle risorse. Oggi non è più soltanto così, nel senso che le disuguaglianze sono rimaste, ma noi consumiamo 1,8 volte quello che potremmo consumare. E questo cambia ovviamente in maniera radicale il contesto in cui siamo. Guardate, queste sono cose che non è che le abbiamo come dire, scoperte ora, insomma. Ripeto, Enzo Tiezzi nel 1984, nel suo Tempi storici, Tempi più erotici, già prevedeva questa dimensione. Quindi stiamo parlando di 40 anni fa. E 40 anni fa, appunto, c'era ancora un contesto di relativo equilibrio rispetto al consumo delle risorse e del numero di persone che abitavano il pianeta. Oggi non è più così. Se vogliamo andare indietro ancora più nel tempo, penso alla Ginestra di Giacomo Leopardi, quando a Torre del Greco nel 1836 lui scriveva il fiore del Vesuvio, lui scrisse secco il superbo e sciocco del ritornarti avanti e procedere il fiamme, e diceva appunto dipinte in queste rive sono dell'umana gente le magnifiche sorti progressive dello spirito. Quindi avevamo, come dire, pensieri che provavano in qualche modo a descrivere già, che mettevano già dei punti interrogativi sul futuro, ma come spesso avviene i pensieri non vengono necessariamente presi in considerazione e quindi noi ci siamo trovati in questa situazione. E allora la cornice di questo libro, nella sua ricerca concreta, perché parliamo di situazioni, parliamo di sostenibilità, di insostenibilità e anche, come vedremo, di esperienze che provano a dare una proposta per il futuro, ha come cornice la necessità di cambiare il nostro modo di pensare. E qual è l'altro paradigma rispetto a quello che abbiamo conosciuto sin qui? Per me l'altro paradigma è la cultura del limite. Il limite è questa parola che non ha cittadinanza sostanzialmente nel dibattito pubblico, perché guardate, se ci pensate bene, voglio dire, non se ne parla mai, no? Perché il limite viene considerato qualcosa di negativo, qualcosa che ostacola, no, il dispiegarsi della ricerca, che no, a parte che non è neanche vero, ma insomma il tema è, peraltro, contraddicendo l'atteggiamento che gli storici avevano nei confronti di questo tema. Per gli antichi greci il limite era positivo ed era l'illimitatezza l'elemento negativo. Noi poi, voglio dire, abbiamo continuato a pensare dentro questo delirio, appunto, delle magnifiche sorti progressive, che il limite fosse qualcosa da non prendere in considerazione, e invece, voglio dire, appunto, l'illimitatezza come sfogo per la libertà, in qualche modo, per fare quello che pensavamo. Noi oggi dobbiamo in qualche modo introdurre questo elemento del limite come terreno sul quale rifondare un pensiero, mi viene da dire, insomma, e che investe in generale non soltanto il tema del rapporto con la scarsità delle risorse. Noi dovremmo riflettere sul fatto che il limite è iscritto al nostro DNA, è iscritto al fatto che le nostre vite sono limitate, che prima o poi ce ne andiamo, e che il limite è iscritto al fatto che viviamo in un pianeta ed è l'unico che abbiamo, e dunque, voglio dire, di questo dobbiamo ragionare, perché gli altri, che pure magari ci sono talmente lontani che ci si arriverà chissà dopo quanti anni luce, quindi non sono praticabili. E quindi questa cosa deve entrare dentro il dibattito pubblico, perché altrimenti continueremo a spolverare le cose, insomma, ad accarezzarle in qualche modo, senza entrare nel focus di fondo, insomma, cioè di un diverso rapporto tra uomo e natura. Detto questo, vi dico solo due cose, insomma, che riguardano più da vicino invece il libro che abbiamo scritto. Noi questo viaggio, appunto, l'abbiamo fatto nell'arco alpino e nella dorsale dell'Appenninica, e abbiamo trattato dell'impatto delle crisi sulle terre alte e sulle aree interne. Intanto il lavoro collettivo. Per mesi abbiamo discusso con Maurizio se la firma di questo libro dovesse essere la nostra o quella di tante altre persone che ci hanno aiutato a costruire questo libro. senza il loro contributo, senza il loro impegno anche di scrittura, noi questo libro non avremmo mai potuto realizzarlo, perché non si va all'Aquila o sul Gran Sasso immaginando di capire tutto quello che accade in quel luogo in 3 giorni. Insomma, bisogna conoscere i territori, avere una relazione col territorio, e quindi ci siamo affidati a tutte quelle persone che in qualche modo potevano darci questo contributo, che non era soltanto di scrittura, ma che era soprattutto di vita, di esperienza, insomma. E ecco perché questo libro è un libro collettivo. E a un certo punto, se voi andate a pagina 26, se non ricordo male, proprio per questa ragione abbiamo scritto qualche riga che recita in questo modo. Abbiamo detto, non ci si salva da soli. Occorre incrociare gli sguardi, condividere le conoscenze, tessere le trame di alleanze ampie e plurali, dando vita a sempre più strutturate comunità di pensiero e di azione, per essere interpreti di un cambio di paradigma non più rimandabile, per pensare insieme il mondo a venire. Questo libro va inteso come un numero zero, il primo passo di un collettivo di scrittura attorno ai nodi del passaggio epocale che stiamo attraversando. Quindi non è soltanto un libro che descrive quello che accade nelle terre alte, è proprio un programma di lavoro che abbiamo detto e che vuole essere un programma collettivo. Ci siamo ispirati in qualche misura all'esperienza di Wu Ming, no? Nella capacità di descrivere il contesto globale, dicendo mettiamo insieme i pensieri che ragionano su queste cose e proviamo appunto a fare un collettivo di lavoro. Ne è nato un collettivo di persone da Palermo fino alla Val d'Aosta, passando anche per le Dolomiti, e siamo già 25-26 persone che hanno dato la disponibilità alla scrittura collettiva. Scrivere collettivamente insieme agli altri non è esattamente agevole, perché vuol dire mettere via molto del narcisismo che sta dietro ogni forma di scrittura. E però abbiamo detto, ne vale la pena, perché così forse riusciamo a produrre non soltanto un buon libro, ma riusciamo a produrre anche un impegno collettivo che dura nel tempo, che prova a fare da supplenza al vuoto di solitudine che la politica spesso ha lasciato dietro di sé, insomma. E quindi così ci siamo mossi. E un'ultima cosa, noi abbiamo appunto cercato di capire qual era l'impatto delle crisi sulle terre alte e sulle aree interne. E qual è questo impatto che abbiamo ritrovato? Primo, appunto, abbiamo riscontrato che le terre alte, contrariamente a quello che in genere si pensa, sono quelle più esposte all'aumento delle temperature e della crisi climatica. La seconda cosa è il fatto che la scomparsa dei ghiacciai non è soltanto una cosa per dire vabbè, accade anche questo dentro un contesto di cambiamento molto, molto, molto particolare. La fine di un ecosistema, perché il ghiacciaio è un ecosistema, è una cosa che accade e che ha a che fare proprio con quel rovesciamento di tempi biologici e di tempi storici. I ghiacciai esistono almeno da 14.000 anni. Il fatto che un ghiacciaio non esista più è, come dire, appunto un passaggio che nella vita degli umani degli ultimi 14.000 anni non hanno mai conosciuto, perché 14.000 anni fa c'è stata l'ultima grande glaciazione, e quindi siamo di fronte ad una cosa che avrà delle conseguenze inimmaginabili. Io credo che noi dovremmo avere la contezza della radicalità di quello che sta avvenendo. Se Papa Francesco, guardate, lo dico da non credente, se Papa Francesco arriva a dedicare al tema di cui stiamo parlando un'enciclica, è proprio perché credo abbia compreso bene il carattere straordinario del passaggio d'epoca che noi stiamo vivendo. E dentro questo passaggio d'epoca ci sta appunto proprio il fatto che avverranno cose che prima non abbiamo conosciuto. E guardate che la fine di un ghiacciaio avrà delle conseguenze. Io abito in Trentino, penso alla fine del ghiacciaio della Marmorada e quello che si porterà con sé. non è soltanto la fine di un ecosistema e dunque di una risorsa d'acqua che finora ci ha permesso appunto di... È la fine di un ecosistema che ha impatto sull'agricoltura trentina, che ha impatto sulla produzione di energia elettrica, penso a tutte le dighe che si dipannano dai fiumi intorno alla Marmolada. Penso all'impatto che questa cosa potrà avere rispetto appunto alla vita dell'Adige, per esempio, e del fatto che già oggi noi abbiamo assessori in provincia di Trento che dicono: mettiamo le mani avanti, non ne avremo neanche per noi, figuriamoci per darla ad altri, come se la proprietà dell'acqua non fosse delle autorità di bacino e delle comunità che insistono su questa cosa, ma fosse appunto di chi sta più a monte, ma di quando in qua. No? E voi pensate a quello che potrà accadere. Noi nel libro ne parliamo, abbiamo dedicato un capitolo alla guerra dell'acqua, e la guerra dell'acqua non è se anche questa è una cosa così lontana da noi. Io l'avevo vista per la prima volta quando ero stato in Palestina, sul fiume Giordano, a vedere cosa significava la guerra dell'acqua, quando qualcuno dice appunto l'acqua è mia e non è più vostra, e quello che questo comporta. Siamo già dentro questa situazione e io penso che nel 2023 i primi a pagarne le conseguenze saranno appunto le autorità di bacino, che salteranno perché vivono su un compromesso, diciamo così, tra territori diversi che possono beneficiare di quella risorsa. E quindi vedete come, voglio dire, appunto le cose si sommano e si intrecciano tra loro. Potremmo parlare del costo e dell'impatto che ha la crisi e che sta avendo la crisi energetica sull'insieme appunto del sistema neve e sul... No? All'inizio del 2022 realizzare un metro cubo di neve artificiale costava meno di 2 euro. Alla fine del 2022, per effetto della crisi energetica, realizzare un metro cubo di neve costava 7 euro, quindi più di triplicata. L'acqua non c'è, si continuano a costruire nuovi bacini, perché uno dice i bacini possono essere la risposta, ma non i bacini in quota, i bacini in fondo valle, certo che possono essere una risposta per la raccolta della risorsa idrica, ma costruire in quota, a fronte del fatto che l'acqua scende e non va in su, no? Significa in qualche modo immaginare che i ghiacciai non ci siano per sempre, e sappiamo che non sarà così, e che i costi energetici non vengono calcolati. Ma si costruiscono i bacini, guardate che il costo di un bacino mediamente di 100.000 metri cubi d'acqua è intorno ai 10-12 milioni di euro, no? Significa pompare l'acqua da valle per portarla in quota. E questo è un ulteriore elemento, diciamo così, di intreccio delle crisi e delle cose che stiamo avendo. Per non parlare poi di altri aspetti che riguardano la dimensione omologante dell'industria dello sci. L'industria dello sci, lo sappiamo, ha determinato per molte delle nostre valli il passaggio da una condizione di povertà ad una condizione di benessere e di ricchezza. Questa cosa però ha portato con sé un progressivo... un progressivo snaturamento dell'economia dei territori, perché l'idea di puntare sulla quantità rispetto alla qualità ha fatto sì che appunto funzionassero sempre di più sistemi di tipo appunto fordista o post-fordista, come definiamo appunto il Dolomiti Superski, oppure catene di alberghi che riuscivano appunto a fare numeri particolarmente elevati. In questo modo sono entrati in crisi e stanno entrando in crisi decine e decine di strutture alberghiere legate alla gestione familiare, non solo per questo, per gli effetti della crisi climatica o della mancanza di neve eccetera, ma anche per questo, ma anche per il fatto che la struttura familiare che reggeva queste strutture non regge più, perché stare 24 ore su 24 dentro un albergo non è esattamente quello che un ragazzo può immaginare nel suo futuro. E però dentro questa cosa ci stanno in Trentino 250 alberghi chiusi, e ci sta il fatto che sono saltate le filiere della qualità sul territorio. Nel senso che se tu devi punti tutto sulla quantità, l'esito è che tu ai tuoi clienti non puoi certo dare, ai tuoi utenti non puoi certo dare il massimo della produzione di valore sul piano della qualità del tuo territorio. Noi abbiamo decine di produzioni di qualità che non trovano albergo negli alberghi, scusate il gioco di parole, negli alberghi del nostro territorio. Perché non se lo possono permettere, semplicemente, perché quei prezzi non li prevedono. E questo significa che anziché essere volano per uno sviluppo di altri ambiti, significa sostanzialmente che questi altri ambiti si trovano in difficoltà. Che gli alberghi si approvvigionano ai discount piuttosto che invece sul territorio e così via. E anche qui abbiamo a vedere. E sono tutte conseguenze che abbiamo. Vi dico un'ultima cosa e poi intanto perché sono stato troppo lungo. Abbiamo fatto già, questa è la 35esima presentazione del libro che stiamo facendo. 10 giorni fa abbiamo presentato il libro a Napoli. Uno dice: ma cosa c'entra Napoli con le terre alte? A parte il fatto che il Vesuvio ha, come dire, il suo bel valore, insomma. Ma nella presentazione di questo libro a Napoli abbiamo parlato della decentrificazione dei centri storici, e cioè di quel processo che sta avvenendo in molte aree turistiche e che ha a che fare proprio con l'abbandono dell'abitazione nei centri storici e la formazione di B&B, no? Che determina un alterare, voglio dire, della condizione della vita dentro le città. Abbiamo parlato per una sera appunto della decentrificazione come se noi parlassimo delle terre alte o di quello di cui stiamo parlando in questo pomeriggio, per dire come questo lavoro che abbiamo cercato di mettere insieme, insomma, rappresenta davvero un'opportunità di riprendere la parola e di ragionare su quello che accade intorno a noi. E io credo che, insomma, in questo ci sia anche il valore che a me preme di più, ecco, di un libro, che non è semplicemente quello di dire che bello questo libro, così via, ma è quello appunto di fare in modo che un libro possa diventare uno strumento di dibattito, di confronto e di far sì che la gente si senta un po' meno sola rispetto a quello che è in questo momento. Sì, allora Liquido si riferisce a una situazione, un momento storico di cambiamenti, di situazioni che si vanno evolvendo. E quello che facciamo qui questa sera è prepararci culturalmente per questi cambiamenti che avvengono sempre con rapidità maggiore. Allora adesso farei un intermezzo con la seconda parte della relazione dell'opera e poi passiamo al colloquio che avevamo annunciato. Maurizio, io attacco adesso la telecamera, magari si vede lo schermo, poi in qualche modo parte. Eccoci, allora ritorno un po' sulla scienza un pochino più quantitativa, perché io penso che la preoccupazione che abbiamo anche noi è che sappiamo che la neve è una risorsa idrica preziosa, dunque ci domandiamo: con meno neve, con questo inverno liquido, avremo ancora acqua? E il primo dubbio che ci viene è che in questi due anni, più che inverno liquido, si parlerebbe di inverno secco. Ed effettivamente quello che sta succedendo quest'anno dà una misura dell'importanza della neve per il nostro territorio. Quest'anno siamo in una situazione veramente drammatica, e tra l'altro le previsioni danno un periodo secco che debba continuare ancora per diversi giorni, Questo è un lavoro prodotto da CIMA Research Foundation, che è uscito un po' anche alle stampe. Il monitoraggio sostanzialmente della quantità di acqua presente sulla neve in Italia, fatto dalla Protezione Civile. Questo lavoro fa vedere praticamente quella banda grigia è la situazione normale, la linea nera continua è la situazione media, quella linea tratteggiata sarebbe l'anno scorso, questa è la situazione attuale nel bacino dell'Adige, cioè siamo ben sotto la situazione media degli ultimi 10 anni e in questo momento siamo già nella fase discendente, cioè siamo già nella fase in cui abbiamo superato il picco di accumulo, quando normalmente il picco di accumulo dovrebbe essere per circa un mese. E a sinistra la situazione delle Alpi italiana, dove praticamente in quasi tutta l'Italia, tranne alcune ristrette zone dell'Appennino, siamo attualmente in una situazione sotto la media. E la domanda è: il cambiamento climatico quanto c'entra con queste cose? Cioè, diciamo che non possiamo attribuire in maniera chiara al cambiamento climatico questi due inverni secchi. Però quello che si vede sia dai modelli sia dall'osservazione degli ultimi anni è un aumento della variabilità climatica naturale, nel senso che tendono ad aumentare sia periodi secchi piuttosto prolungati sia periodi piovosi troppo prolungati, proprio questo per un cambiamento della circolazione globale atmosferica, in cui sostanzialmente quelle perturbazioni atlantiche che portavano la pioggia in maniera regolare si stanno ritirando sempre più a nord. Dunque, o che da noi ci sono alte pressioni tipo africano che portano molto caldo, o gocce fredde che possono portare anche precipitazioni intense. Poi l'altro aspetto importante è l'aumento della temperatura e dell'evaporazione durante l'estate, che significa un aumento del fabbisogno idrico, e dunque a parità di pioggia e con una maggiore evaporazione ne servirebbe di più. E la diminuzione appunto di questo manto nevoso, che ovviamente è una risorsa idrica importante, soprattutto in primavera e estate. Dunque diciamo, sicuramente andremo in un ambiente che, anche se continuerà a piovere in maniera abbondante, determina una maggiore vulnerabilità delle nostre Alpi. In un certo senso dico, le Alpi pian pianino si stanno trasformando in un Appennino. In termini dei regimi dei fiumi da noi, significa anche che probabilmente, se consideriamo la quantità di acqua durante tutto l'anno, non ci sarà una fortissima diminuzione, ma ci sarà un cambiamento del regime. Cioè vuol dire poter avere occasionalmente più acqua d'inverno, nel caso che piovesse invece di nevicare, un anticipo del picco di fusione primaverile e anche una sua diminuzione, una diminuzione dei deflussi in estate e una maggiore variabilità d'autunno. Cioè significa avere autunni piovosi oppure autunni molto secchi. Quali sono le implicazioni di questo? Ci sono implicazioni importanti nel settore energetico e ecco una cosa, un cambiamento proprio degli ultimi 2 o 3 anni che vedo anche noi che lavoriamo nel settore, abbiamo molte più richieste di lavoro, molti più progetti di ricerca, è che sia i settori agricoli sia i settori energetici, che fino a qualche anno fa erano abbastanza impermeabili rispetto al cambiamento climatico, cioè diciamo reagivano esclusivamente su sollecitazioni economiche a breve termine, adesso sono estremamente preoccupati entrambi i settori. E questo in un certo senso la vedo anche come un segno di speranza, nel senso che sta diventando una tematica che non è più di una sola parte politica oppure di determinati settori, diciamo, culturali, ma sta diventando veramente una tematica che interessa a tutti. E cosa significa questo? Significa dei possibili cambiamenti nella produzione dell'energia idroelettrica, cioè la gestione dei bacini deve essere cambiata, nel senso che la disponibilità idrica è in periodi diversi. Vuol dire anche uso diverso dei bacini, si parla molto adesso di usare i bacini che finora erano stati programmati puramente in funzione idroelettrica, come anche delle riserve idriche per uso agricolo o idropotabile d'estate. Ad esempio c'è un grandissimo dibattito politico, rilasciamo l'acqua del lago di Santa Giustina, ma se usiamo l'acqua di Santa Giustina per l'irrigazione cosa può succedere? Quanti sono i costi di questa cosa? Quali sono i benefici? Sono tutte questioni in cui è importante migliorare anche la nostra conoscenza dal punto di vista scientifico, sapere esattamente quante risorse abbiamo in modo da avere delle scelte informate. E poi ad esempio un altro settore molto molto importante è l'uso dell'energia idroelettrica come stoccaggio, cioè diciamo questi bacini possono essere considerati anche delle grandissime batterie, dunque in una prospettiva possibile futura di maggiore uso di energie rinnovabili, l'idroelettrico potrebbe essere sempre più visto come una fonte di stoccaggio dell'energia nei periodi in cui il solare produce poco. Poi un'altra tematica importantissima che è più vicina a questa è dell'acqua e il turismo sciistico. A me piace molto questa foto che ho fatto un giorno che ho utilizzato l'impianto di innevamento artificiale delle Tre Cime. Se vedete questa foto è l'impianto di pompaggio e di fatto, se lo si vede, è molto simile a una centrale idroelettrica, cioè sostanzialmente è una centrale idroelettrica alla rovescia. E questo ci dà l'idea anche dell'importanza economica di queste risorse. In questo momento la prospettiva, come avete accennato prima, è sostanzialmente una prospettiva di potenza, cioè le stazioni sciistiche con più risorse stanno investendo sempre più risorse in modo da produrre le onde artificiali necessarie in finestre temporali sempre più brevi, e è una corsa al rialzo. Ovviamente questo avrà un limite di sostenibilità che è difficile prevedere e dipende anche molto dalle scelte che faremo nel futuro. Questo ad esempio è un grafico che dà il numero di giorni con la temperatura minima inferiore a zero a Sesto, che è già una località abbastanza fredda. Questo viene dal Clima Report che ha fatto l'Eurem nel 2018. E quello che si vede è già le osservazioni, fanno vedere come negli ultimi 40 anni c'è stata una diminuzione di questi giorni, con però alcune oscillazioni più importanti. E questi sono i due scenari. E come si vede, lo scenario diciamo che prevede una certa mitigazione, fa vedere una diminuzione, però a un certo punto si vede anche una stabilizzazione di questa situazione. L'altro invece precipita a valori molto molto bassi. Ora il valore che vedete dal 2100 di Sesto, di circa 100 giorni di gelo, è il valore che c'era una volta negli anni 70 in fondo valle da noi. Cioè diciamo così, a Bolzano, a Trento, una volta c'erano circa 80-100 giorni di gelate. Quest'anno ad esempio probabilmente siamo arrivati a 50 gelate, non di più. Dunque diciamo lo scenario più drammatico fa vedere intorno alla fine del secolo una situazione climatica di Sesto Pusteria che è 1200 metri paragonabile a una località di 200 metri. Dunque vuol dire un abbassamento di circa 900 metri. Dunque diciamo lo scenario più drammatico è sicuramente totalmente insostenibile per qualunque forma di utilizzo della neve, al di là di fare palle di neve durante qualche nevicata. L'altro scenario invece permette ancora dei margini di manovra. E ovviamente poi c'è tutta una serie di conseguenze sui pericoli naturali, butto solo qui un accenno generale, cioè sia quello che abbiamo visto in Marmolada, cioè scioglimento di ghiacciai molto rapidi, sia tutte le tematiche dell'instabilità di questi nuovi territori rilasciati dai ghiacciai che comunque non sono più in equilibrio con le attività erosive degli agenti atmosferici e dunque problemi di frane, problemi di crolli, problemi legati al permafrost. Poi anche un problema di rilascio dei sedimenti da questi nuovi ambienti che non sono coperti neanche da suolo, e anche infine una problematica opposta legata ad alluvioni legate al fatto che magari d'autunno piove fino alle quote più alte e dunque l'area disponibile per un'alluvione diventa molto più significativa rispetto all'alluvione del passato dove oltre a una certa quota nevicava. Dunque, in termini di gestione dell'acqua, questo significa in generale un aumento del fabbisogno idrico, una diminuzione delle risorse idriche, soprattutto in estate, e un potenziale, un reale inasprimento dei conflitti per la risorsa idrica. Si vede questa primavera quanto importante sono. Dunque, cosa bisogna fare? Bisogna fare una serie di misure di trattamento, su cui si sta già lavorando, che primo va nella direzione del risparmio, dell'efficientazione, in secondo luogo una diversa gestione delle basi attuali, in terzo luogo una ponderata idea di poter costruire nuovi invasi e infine, molto molto importante, anche una questione di coordinamento istituzionale, nel senso che spesso da noi l'acqua non viene gestita bene anche perché ci sono moltissimi enti, moltissime competenze, spesso in conflitto, sia a livello locale, tra una gestione dei singoli agricoltori, ad esempio i singoli agricoltori se non uniti in consorzi non ottimizzano l'utilizzo, poi ad esempio a livello di acquedotti ci sono acquedotti piccoli comunali che se interconnessi in maniera opportuna possono essere molto più resilienti, poi c'è un problema di competenze anche tra la gestione dei rischi tra le varie parti istituzionali, infine si va ad un livello regionale, cioè l'acqua divisa, l'acqua, l'Alto Adige non vuole rilasciare l'acqua al Trentino che non vuole rilasciarla al Veneto, diciamo una cosa in poche parole. Dunque, cosa fare? Prima cosa, la riduzione delle emissioni. Cioè, la scelta che abbiamo è sostanzialmente se vogliamo trasferire il nostro mondo in Appennino del Nord o giù in Sicilia. Cioè, nello scenario di mitigazione, diciamo, le Alpi diventeranno in qualche forma un Appennino. Nelle scenari più drammatici potrebbero diventare come l'Etna, come l'Atlante. Dunque, diciamo, un ambiente decisamente diverso da quello che ci poniamo, con una serie anche di problematiche culturali, nel senso che andiamo in un ambiente in cui la nostra cultura non è abituata. Un altro importante è quello di ampliare anche gli orizzonti, cioè uno sguardo sul mondo, cioè nel senso, le Alpi sono piccole, tutto sommato siamo fortunati, ma pensiamo a queste tematiche aumentate di numero di grandezza per quanto riguarda le problematiche tra Himalaya, India e Cina. Le montagne lì sono 2 volte più grandi, la popolazione è 10 volte più grande, qui si parla di miliardi di popolazione. Oppure, non so, quello che è successo già al lago d'Aral si è prosciugato per un utilizzo. Dunque, sicuramente le nostre problematiche sono importanti, però sono molto più importanti ad un livello mondiale. Ecco, questo più o meno alcuni spunti di riflessione che penso possano aiutare. Grazie per il tempo. Niente, adesso direi di iniziamo il colloquio che avevamo previsto, c'è il microfono e chi vuole dire qualcosa, fare delle domande. Grazie, buonasera, mi chiamo Roberto. Oggi ho sentito l'intervento alla radio di Michele, visto che ci diamo del tu, e per questo sono qua stasera. Volevo puntualizzare 2 cose. Mi ha tratto soprattutto il tema del limite. Siamo in una provincia dove non ci sono limiti. Questo vorrei dirlo molto chiaramente, perché se la politica parla ogni tanto di qualche tema in questo senso, le spinte delle comunità o gestori di interessi vanno in un'altra direzione. Io per anni mi sono interessato anche di acqua per il mestiere che ho fatto. Il collettore principale che scende dalla Val Passiria sta diventando insufficiente, vuol dire che tutta la Val Passiria sta scaricando, almeno in certi periodi di punta, molta più acqua di quello che questo collettore può portare a valle al depuratore. In Val Passiria c'è un albergo, che credo abbia 18 stelle, non so che cosa, che ha al proprio interno una struttura che riprende una spiaggia caraibica. In Val Pusteria c'è un altro albergo nato da una mini struttura che, se si vedono le foto nel sito, era il classico albergo Aldo Tesino, 2 falde, 3 piani, dove il lago sul quale esisteva di proprietà era un lago. Adesso questo è diventato la piscina dell'albergo. Questo per dirvi un pochettino. Quello che mi spaventa è un po' anche l'aspetto di questa possibile transizione dall'inverno di noi sciatori, e questo mi spaventa anche personalmente, perché tra fondista e sciatore, vero, ci passo qualche ora, ma è questa transizione dove ci porterà. Perché qua in Alto Adige, non so, mi sembra il Trentino sia un po' diverso con i numeri che prima ci hai fatto, Maurizio, i numeri sono tali che di recente hanno approvato l'aumento di 7.000 posti letto, dicono sì, 7.000, che già qua in Alto Adige ne abbiamo finché vogliamo, perché così hanno dato sfogo al litigio tra albergatori e le strutture locali legate all'agricoltura, eccetera. Vuol dire che 7.000 per le notti che vengono impegnate ci dà tutte una serie di numeri. Ogni albergo è pieno di spa, è pieno di strutture per il gioco, volumi enormi che devono essere scaldati e raffrescati. Dico un numero che ho letto da qualche parte, siccome siamo tutti molto umweltfreundlich, il turismo ha fatto in modo che questi mega alberghi, dalle 4 stelle in su, perché ormai in Alto Adige sono 4 stelle in più, in su, dicono ma noi risparmieremo almeno il 20% di energia in meno per ogni cliente. Ma se io moltiplico lo stesso l'energia che devo fornire per gratificare 7.000 posti letto, vero, i conti non tornano comunque. Tutta questa energia dove la andremo a prendere? Non credo né dal fotovoltaico né dall'idroelettrico. Auguriamoci, come dicevamo prima, di essere fra 2 mini glaciazioni, se no non ce la faremo. Grazie. Facciamo lasciamo un po' sì, parlare. Io mi chiamo, farò distanza come è giusta. Però mi è piaciuto molto il discorso di Michele Nardelli sui limiti, sembrava un matematico. Ma ci sono dei quei limiti, c'è un limite delle risorse rinnovabili, il sole ci dà energia tutti gli anni, abbiamo quell'energia che potremmo utilizzare più o meno bene ad esempio a mezz'ora. E poi ci sono invece le risorse finite, tipo le risorse delle materie prime. Noi non solo abbiamo distrutto, diciamo, l'ambiente, anche per l'emissione della CO2 in maniera massiccia nell'aria, bruciando combustibili fossili, ma stiamo anche depauperando la terra di materie prime, poi c'è più tipo le materie, tipo le terre rare, anche se vogliamo il ferro, ce n'è tanto, ma insomma poi finisce tutto. Allora, all'inizio ho visto delle proiezioni sul clima nel 2500. 500 anni fa è stata scoperta l'America, mi chiedevo come sarà la Terra fra 500 anni. E oggi abbiamo sentito due parolacce, una era limite, l'altra era risparmio, no? Due parole che a quanto pare non si possono usare. Io mi chiamo Matteo, sono un docente da diversi anni come attivista, insieme a Claudio, tra l'altro, a Gessa, che tocca qualche rai, trattiamo questioni migratorie, questioni climatiche, eccetera, no? Allora, intanto sono contento di quello che ha appena detto il Signore. Appunto, la provincia di Bolzano è una provincia completamente senza limiti, e vi invito a leggere un'intervista che è apparsa scusate, sul quotidiano Alto Adige qualche giorno fa, se non sbaglio, forse la settimana scorsa. Intervista fatta a un ex all'ex vicepresidente degli impianti dell'Alto Adige, che dice delle cose completamente fuori dal mondo. Quindi, a fronte di questi che sono dati scientifici, a fronte di quello che stiamo vivendo, che stiamo subendo soprattutto negli ultimi anni, a fronte di un cambiamento che stiamo vivendo effettivamente sulla nostra pelle, a questo signore viene dato ampio spazio in un quotidiano molto letto in Alto Adige. E tra le altre cose, oltre a raccontarci che sparare neve non ha nessun tipo di impatto a livello ambientale e non consuma acqua, racconta appunto ad un certo punto, questo solo per darvi il taglio dell'intervista, racconta a un certo punto che bevendo probabilmente dopo un tot di bicchieri di vino in una cantina, in una famosa cantina di Trento, si inventa questa parola, passa da vinificazione a nevificazione, che è una parola che si è inventato, che non ha nessun senso, però lui cerca con questa parola di spiegare che continuare a sparare neve in montagna non ha nessun tipo di impatto a livello ambientale. È stata data una risposta il giorno dopo, l'abbiamo data anche noi, che ovviamente è uscita con un piccolo trafiletto. Questo ha un impatto molto importante dal nostro punto di vista e anche dal mio punto di vista, perché le persone leggono calma, non sta succedendo niente, e questo è il primo dato. Il secondo dato lo dico da insegnante: l'educazione ambientale all'interno delle scuole è stata l'educazione ambientale degli anni 80 e degli anni 90. Forse qualche docente parla dell'agenda 2030, ma si fa ancora fatica a spiegare agli studenti e alle studentesse che in realtà il cambiamento climatico è in atto e lo stiamo vivendo. Loro ovviamente, che sono molto più giovani di me e di noi in generale, lo stanno vivendo molto meno. Chi ha 15 anni non si può rendere conto che per esempio a Bolzano 30 anni fa la neve era normale. Oggi non si rende conto, è convinto che non nevicherà mai a Bolzano. Questo lo dicono studenti e studentesse sia di Bolzano che di Merano che di Bressanone. L'altro punto importante è come facciamo a far uscire questi dati che per certi aspetti sono drammatici da questa sala, se l'età media resta purtroppo molto alta, perché si fa sempre molta fatica ad arrivare con questi dati a ragazzi, a giovani. E una delle risposte è, per esempio, cercando di sostenere e di solidarizzare con tutti quei giovani e quelle giovani che ci mettono la faccia e che ci prendono un sacco di denunce per l'ambiente. Gli attivisti e le attiviste di Extinction Rebellion e di Fridays for Future, in parte, ultimamente molto meno, e di Ultima Generazione, stanno cercando in qualche modo di uscire, sono pochissimi, in Alto Adige probabilmente saranno, già forse tu lo sai meglio di me, stiamo parlando di qualche, meno di 10, stanno cercando di riportare queste tematiche a livello nazionale, però si fa veramente fatica, perché ogni volta che si fa un passo, che a volte può sembrare anche molto, come dire, simbolico, no? Sporcare con del detergente lavabile e naturale la facciata di un comune, come è successo a Firenze, viene criminalizzato. C'è gente che in questo momento è sotto processo anche a Bolzano per questo motivo. Grazie. I giovani sono qui, volevo solo dire 7.000 posti letto senza valutazione di impatto ambientale, e abbiamo fatto una segnalazione anche all'Unione Europea su questa cosa, perché siamo in costante sforamento dei valori limite degli ossidi di azoto in provincia di Bolzano, in particolare a Bolzano. Il commissario ci ha risposto, loro hanno i dati, che siamo sui 50 microgrammi all'anno rispetto ai 40, e 7.000 posti letto in più chiaramente portano un carico ulteriore anche da quel punto di vista. Grazie Claudio. Una domanda a Michele, che durante il suo intervento ha descritto il libro come un libro contiene in qualche modo anche un programma, giusto? Quindi mi chiedo, come ogni programma, per essere poi in parte almeno realizzato, ha bisogno di attori sociali e politici per portarlo avanti. E in questa fase storica, quali sono gli attori sociali e politici che sono in grado ad essere interpreti di un programma di questo tipo qua, che in qualche modo è un tema molto radicale da un certo punto di vista? La seconda parte della domanda, non c'è il rischio che il tema dell'ambiente, dico rimane in qualche modo una provocazione, sottolineando rimane, una materia di consumo mediatico, politico e economico? Non so se mi sono spiegato. Grazie. Mi tocca molto scomodamente difendere il giornale sul quale scrivo, per ricordare al docente che è uscita sì l'intervista al direttore o ex direttore degli impianti nazionali, che comunque l'intervista comunque era condotta in maniera corretta dalla collega Mattioli. Solo che due giorni dopo ne è uscita anche una molto più lunga a Michele, e in cui si parlava, insomma, di quello che parla il libro, quindi le cose erano bilanciate. Semmai, e questa è la domanda, è come fare a trattare, a colloquiare, a far capire i veri problemi se la controparte è così intransigente. Questo è il vero problema. Il giorno in cui Greta Thunberg entrerà con i piedi dentro l'assetto economico finanziario rischierà la pelle. Cioè, se noi non capiamo che c'è una grande macchina, cioè la mega macchina del nostro mondo, che funziona secondo delle logiche finanziarie ed economiche, le nostre parole sono destinate a diventare sabbia sahariana. adesso mi imbarazzo tutte queste domandone, volevo chiedere una cosa molto piccola sul portale, sul vostro arrivo. Innanzitutto grazie Michele Nardelli per come l'ha presentato molto bene. Si è detto prima che le Alpi rischiano di diventare gli Appennini a livello diciamo climatico, ma invece nel vostro viaggio, diciamo adesso forse la domanda quale differenza avete visto tra Appennini e Alpi è un po' banale, però diciamo chiaramente non sono la stessa cosa, cioè come area interna, terra alta, diciamo, hanno dinamiche sicuramente diverse, quindi mi interessava capire, diciamo, sì, effettivamente le differenze. Possiamo fare così. Siamo ancora uno e poi... Sì, sì, c'è già una montagna di roba. Come, se sei ancora un altro... Sì. Adesso... Grazie, sono Stefano. La cosa che mi ha più allarmato è che non ci sia una visione di un'alternativa all'industria della neve. Io volevo chiedere al ricercatore dell'Eurac, so che l'Eurac ha iniziato una ricerca proprio su questo tema che mi sembra si chiami Beyond Snow, no? O qualcosa di simile, che è ancora in corso, per cui sicuramente non ha dato ancora risultati definitivi. Ma esiste un'alternativa? Perché quello che è stato detto dall'altro autore è che non c'è un'idea di un utilizzo turistico diverso né un progetto diverso per le nostre montagne. E il segreto del successo al Tor Tesino, perché ricordo un dato, 34 milioni di pernottamenti in Alto Adige, proprio grazie a quella trasformazione che Roberto Torrison prima ha citato, di passaggio dall'industria della neve a quello del wellness, conti 12 milioni di pernottamenti invece del Trentino, che ha fatto una scelta, non so se per scelto per mancanza di iniziativa turistica, che comunque è conservativa rispetto alla follia del carosello turistico in Alto Adige. Ecco, allora la domanda, Snow dà qualche risultato? C'è una visione? Sta emergendo qualche cosa? Oppure veramente per la montagna esiste solo il modello Alto Adige? Grazie. Puoi rispondere tu su questa cosa e poi... Oppure... Sì, che ora andiamo. Ci vuoi pensare? Sì, cioè... Sì, sì, posso rispondere. Parto dall'ultima domanda. E, allora, sul progetto Beyond Snow è attualmente in corso, è all'inizio. Esatto. E se c'è qualcuno che può parlare... Grazie mille, scusate se mi intrometto un attimino. Il mio nome è Filippo Corradini, sono ricercatore presso l'Euro e faccio proprio parte anche del progetto Beyond Snow. Solo molto brevemente, il progetto adesso è partito all'inizio di quest'anno, è un progetto europeo finanziato dall'Unione Europea e durerà 3 anni, perciò adesso siamo ancora molto all'inizio, però il nostro approccio generale sarà sicuramente, intanto abbiamo individuato 10 aree pilota, sono dei piccoli comprensori sciistici. In questo momento nessuno è ancora collocato in Alto Adige, ma siamo in dei paesi partner che è praticamente Italia, Slovenia, Svizzera, Francia, Austria, Germania. Il nostro approccio sarà più che altro cercare all'inizio di capire le destinazioni turistiche, perché quello è, diciamo, il punto di partenza. Diciamo, vogliamo capire innanzitutto quanto l'economia di quei comprensori è veramente legata alla neve, perché spesso e volentieri, come per esempio anche in Alto Adige, chiaramente l'economia turistica dell'Alto Adige è molto legata alla neve, ma in termini per esempio di pernottamenti, 60% dei pernottamenti in Alto Adige è più che altro fatto nel periodo estivo, perciò spesso e volentieri c'è anche una percezione un po' diversa dell'ambito economico quando si tratta anche di prenotamenti turistici. Noi comunque cercheremo di sviluppare delle offerte turistiche sui vari territori, aree pilota, che non per forza hanno a che fare solo con la neve. E in più un approccio sarà anche valutare esattamente quanto le diverse aree sono collegate al turismo della neve, perché spesso e volentieri può anche essere che maggioranza dell'introito, anche in termini economici, non sia neanche legato al periodo invernale, alla neve, ma a quello estivo. Comunque, siamo ai primi passi, vi chiediamo un attimo di pazienza ancora, però sicuramente forniremo poi dati anche più avanti, man mano che il progetto va avanti. Grazie mille, scusate. Allora, rispondere a tutte le vostre sollecitazioni è difficile, ma poi non ci stiamo nel quarto d'ora che abbiamo ancora a disposizione per la sala, quindi io proverò a riprendere alcuni concetti per quello che riesco a fare. Il primo riguarda la domanda che attraversa molti di voi e che ci chiede come facciamo a far uscire queste considerazioni, queste idee ad un pubblico più vasto e così via. Io mi sono fatto un'idea sostanzialmente che dentro la difficoltà del nostro tempo ci sia l'emergere di una sorta di nuovo nichilismo. Oggi le persone, se vogliono sapere, sanno. Non è che qualcuno può dire io non so, perché con gli strumenti che abbiamo in tasca dalla mattina alla sera e che continuiamo a sollecitare, noi possiamo essere a conoscenza di gran parte delle cose che non solo ci siamo detti oggi, ma anche molte altre, molte di più. Questa cosa della scelta di non sapere, di non vedere, è una cosa particolarmente difficile da considerare, e devo dire che l'ho letta anche dentro le parole dell'enciclica Laudato Si, questa idea del fatto, no? Appunto, quando si parla appunto di indifferenza, quando si parla proprio del fatto che le persone preferiscono chiudere gli occhi di fronte alla realtà. Io credo che questo sia un problema, nel senso che l'ho visto anche durante il Covid, peraltro, allora, quando alcuni amici, persone che conoscevo e con le quali avevo buoni rapporti, eccetera, mi dicevano: guarda, per favore non parlarmi più di questa cosa, perché sono stufo di sentirne parlare, come se una cosa la potessi rimuovere semplicemente perché ti ha rotto i coglioni, scusate l'inglesismo, insomma. Il dato è di scegliere di non vedere, guardate, se ci fate caso, lo troviamo in maniera sempre più diffusa. Mi viene in mente, io per tanti anni mi sono occupato di questioni di guerra, di pace e dell'area balcanica, ma quando la guerra era già nelle strade di Sarajevo, le persone continuavano a dire: qui non accadrà, non è possibile che accada. Perché? Perché è un meccanismo anche di ordine psichico, psicologico, se volete, insomma, quello di non guardare, di non riconoscere. Perché la conoscenza è dolorosa. Se poi abbiamo a che fare con una situazione particolarmente grave, inedita, come cercavo di dire prima, questa dimensione di dolore la si vuole espungere dal nostro immaginario. E quindi non è semplicemente il fatto che oggi dobbiamo fare propaganda rispetto a queste idee. Qui si tratta di fare semmai un lavoro più di consapevolezza degli effetti che tutte queste cose avranno sulla nostra realtà. Solo che non è facile. Perché nemmeno chi si occupa, io mi sono, insomma, il libro precedente a questo che ho scritto si intitola Il monito della ninfea. E il titolo, Il monito della ninfea, ha proprio a che fare con questo meccanismo di tipo psicologico. Noi guardiamo la superficie dello stagno, la ninfea si moltiplica di giorno in giorno in maniera esponenziale, no? E però fino al giorno prima della copertura dell'intero stagno, metà dello stagno è ancora libera. E noi di fronte a questa metà di stagno appena libera consideriamo: abbiamo ancora un bel po' di tempo, non capendo che il giorno successivo lo stagno sarà, no? Ora, questa cosa, secondo me, è il modo con cui noi finora abbiamo guardato ai processi che accadevano intorno a noi, no? Non si può più dire, appunto, non sapevo, no? Si deve dire invece oggi, o c'è una presa di consapevolezza di tutti, o altrimenti andiamo a sbattere. Dentro questo meccanismo di consapevolezza, questa cosa della consapevolezza di tutti, ci sta anche un altro aspetto che ha a che fare con il rapporto con la politica, o se volete anche con la parte construence del libro, e cioè di tutte quelle esperienze che abbiamo cercato di dare voce per dire: guardate che qualcosa di diverso la stiamo provando. Nel senso che vabbè, anche qui per non fare ragionamenti troppo complicati, 8 giorni fa ero a Pinzolo a presentare il libro. Pinzolo è Madonna di Campiglio, per capirci, cioè uno dei luoghi principali dell'industria della neve in Trentino. Alla presentazione del libro c'erano il sindaco di Pinzolo, 2 assessori comunali, il direttore delle funivie e il presidente della BT. Quindi avevo di fronte i soggetti, diciamo così, più significativi, insomma, ecco, del mondo dell'industria dello sci locale, insomma. E io ero un po' titubante, ero un po' anche così un po' turbato dal fatto che ne venisse fuori uno scontro come quelli che abbiamo già conosciuto anche in passato. Penso a tutto il dibattito sulla questione dei parchi naturali, dei parchi nazionali, lo scontro tra città e campagna, tutte queste cose, no? E non è stato così, non è stato così. Questi, il sindaco e il direttore delle funivie, avevano con loro il libro tutto pieno di sottolineature, di cose, eccetera, per cui alla fine l'uno e l'altro mi hanno ringraziato per questo nostro lavoro. Ora mi sono subito detto: cosa avrò scritto di male, voglio dire, perché questi mi ringraziano, insomma. Non è così. Io credo che non sia così. Poi sono abbastanza vecchio per vedere se uno sta bleffando o sta prendendomi per i fondelli, no? E quindi ho avuto la percezione del fatto che qualcosa effettivamente di importante stia avvenendo, che magari, voglio dire, non è ancora quella presa di consapevolezza di cui parliamo, ma del fatto che molto spesso le dinamiche che abbiamo conosciuto fin qui siano appunto di azione e reazione, di scontro tra mondi che non si parlano mai. Io credo che cominciare a dialogare laddove il dialogo sembra impossibile sia una strada. La mia storia personale mi ha portato a dialogare con i criminali di guerra, per capirci, insomma, per cercare non tanto di tirar fuori, vuol dire, l'umano che è in loro, quanto per capire soprattutto quello che era accaduto e quello che stava accadendo. Io credo che in questo senso sia importante riuscire a costruire nuove alleanze, e queste nuove alleanze, a proposito di quello che chiedeva anche Adel, non hanno a che fare con blocchi sociali nuovi. Semmai hanno a che fare con lo sgretolamento dei vecchi blocchi di potere che hanno determinato un'alleanza molto ferrea tra impiantisti e albergatori in diverse zone di sviluppo. Io conosco bene quelle del Trentino, ma immagino anche quelle in Sud Tirolo, ad Adige. Per cui io credo che dentro questa ricerca di dialogo ci stia, voglio dire, la possibilità di fare in modo che tutti capiscano che di fronte alla gravità della situazione o ci si salva insieme o non ci si salva. Non è che qualcuno può chiamarsi fuori, ma, e dentro questo ci sta una rivoluzione di atteggiamento, insomma, di in questo i vecchi schieramenti non funzionano davvero più. Primo perché, come ho cercato prima di dirvi, i pensieri che sono stati oppositivi nel corso dell'Ottocento e del Novecento erano sostanzialmente analoghi nel rapporto con la natura e le risorse. L'uomo signore del pianeta era l'elemento fondante della cultura marxista quanto appunto della cultura liberale. E dentro questo ci sta proprio un cambio di prospettiva. Ecco perché io credo che si tratta di lavorare per costruire un nuovo paradigma, nuovi pensieri che ci permettano di leggere il nostro tempo. E questo è evidente che va a scontrarsi con la lentezza del nostro modo di pensare e l'urgenza di dare delle risposte. E su questo io non so se ci riusciremo, perché oggettivamente la politica, ma quando parlo della politica parlo anche di corpi intermedi, di tutti i corpi intermedi, quindi anche dell'associazionismo, è, come dire, molto spesso totalmente immersa con la testa dentro il secolo precedente. No, noi siamo appunto, no? C'è questa bella immagine dell'uomo moderno che sta col corpo dentro un contesto nuovo e con la mente dentro il passato. Ecco, questo cambio di pensiero radicale io credo che debba riguardare e investire tutti. Poi anch'io ho letto l'intervista a Paolo Cappadozzi, no, che è uscita qualche giorno fa, ed è evidente che qui abbiamo a che fare con qualcuno che è particolarmente come dire, cocciuto nel proprio modo di pensare. E io so bene che se vado a ragionare di queste cose con le varie lobby di potere che ci sono ancora, voglio dire, nelle valli del Trentino, legate appunto agli impiantisti, eccetera, eccetera, mi trovo di fronte sostanzialmente a atteggiamenti di questo tipo. Però io credo che se uno è solo un po' lungimirante, sa perfettamente che può pensarla come vuole, ma fra 10 anni si troverà a dover cambiare radicalmente la propria proposta, sia di tipo turistico che di gestione del territorio. E allora io credo che se lo facciamo ora, se iniziamo ora a lavorare su questo, probabilmente fra 10 anni siamo in grado anche di avere una proposta che possa essere alternativa al modello industriale dello sci. Non mi ricordo chi poneva questa domanda. Se noi domani mattina dovessimo dire sostituiamo l'industria dello sci con qualcos'altro, noi non siamo in grado di dare una risposta, perché tutte le esperienze che abbiamo conosciuto, alle quali abbiamo dato la parola, non sono ancora in grado, a cominciare dai numeri, diciamo così, a rappresentare una proposta alternativa. Lo sono però in nuce come approccio, e quell'approccio io credo che va coltivato nel tempo per poter in qualche modo immaginare. Quando abbiamo parlato a proposito della Val di Funes, del turismo delle relazioni, abbiamo buttato lì un'idea che secondo me ha a che fare con il cambiamento del senso stesso di fare vacanza, o di fare, o meglio di viaggiare, mi viene da dire, perché il concetto di vacanza non mi piace. Vacanza è una condizione negativa, è vuoto, insomma, no? Viaggiare invece è la forma di conoscenza. Allora l'idea di fare in modo che le comunità si attrezzino per mettersi a disposizione di persone che non conoscono quella realtà, per entrare davvero in empatia con i territori, io credo che questa possa essere una tendenza, una prospettiva diversa, in grado di rappresentare anche un'alternativa a lungo andare all'industria dello sci che abbiamo conosciuto finora. Però è evidente che questo è tutto un processo in divenire, no? E dentro questo divenire ci stanno le migliaia e migliaia di situazioni, noi ne abbiamo cercate di censire qualche decina, insomma, di realtà che stanno appunto provando ad investire in maniera diversa, insomma, e lo stanno facendo con a partire proprio, come dire, dalle piccolissime talvolta esperienze che però hanno un valore culturale che può diventare anche quantità prima o poi, insomma. E capisco che sono le 19:30, che devo starmene zitto, vedo se c'ho qualche altro punto da riprendere. Sì, un'ultima cosa, ma 10 secondi. Dentro il tema del limite, secondo me c'è una possibilità di declinazione che potrebbe in qualche modo essere anche affascinante, che non è la decrescita più o meno felice di cui ce ne abbiamo sentito parlare finora, ma è l'idea, forse ti ricorderai quando ne parlavamo nel Consiglio Provinciale a Trento, del fare meglio con meno. Ora, fare meglio con meno significa in qualche modo costruire una ipotesi semplice, immediatamente percepibile, che dà senso al valore delle cose vere e profonde che abbiamo in qualche modo smarrito. Perché noi appunto continuiamo a ragionare dentro questo delirio economicistico sulla quantità, ma la qualità delle relazioni, la qualità delle cose che riusciamo a mettere in campo, secondo me sono la vera sfida con la quale anche mettere, proprio sfidare anche appunto i soggetti dell'industria e dello scienza, insomma. E su questo chiudo con il fatto che purtroppo oggi, fin quando la politica continuerà a lisciare il velo alle spinte più corporative o ai desideri particolaristici, evidentemente non ne usciremo. E però io credo che oggi, voglio dire, se c'è un territorio totalmente dentro il secolo scorso, senza nemmeno conoscerlo peraltro, è la politica, e quindi io credo che su questo dobbiamo anche saper rimescolare le carte, saper indagare tutto quello che possiamo cercare di indagare, ma su questo si aprirebbe un altro capitolo che riguarda una cosa che da qualche anno sto facendo, che si chiama Viaggio nella solitudine della politica, e che si propone proprio di costruire nuove comunità di pensiero, che io credo siano quello che serve per rifondare anche la politica. Grazie per il vostro tempo. Grazie ancora, buona serata a tutti. Vi invito a tornare mercoledì 22 marzo, sempre in questa sala alle 17.30. L'incontro sarà con Marco Bellabarba e Andrea Bonoldi, Università di Trento, una riflessione sulla storia moderna oggi. Grazie.